versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, siamo in diretta qui dagli studi di Milano della radio, sono le 16:33 e 43 secondi e il tema della giornata, della puntata, è obbligato naturalmente, facendo questo mestiere oggi sarebbe un po' improprio parlare delle tante miserie italiane, politiche ed europee, perché c'è una vicenda europea e mondiale che ovviamente ha la preminenza. Stiamo parlando, come è scontato ed è giusto fare, della strage avvenuta in mattinata a Parigi, ne avrete sicuramente sentito, l'attacco di due, sembra fino a questo momento, forse tre incappucciati che ripetendo slogan islamisti hanno fatto irruzione alla redazione di uno dei più famosi, non solo in Francia ma insomma nel mondo, settimanali satirici, Charlie Hebdo, e hanno compiuto una strage. Stiamo, il bilancio fino a questo momento è di 12 vittime e di 5 feriti. Tra le vittime ci sono non solo quattro dei più famosi in tutto il mondo vignettisti di Charlie Hebdo, c'è anche il direttore, c'è un economista che collaborava al settimanale. Tra le vittime l'agente di polizia Freddato, se qualcuno ha visto quell'orrendo clip, però purtroppo bisogna documentare le cose per terra, da uno degli attentatori. Gli attentatori sono riusciti allo stato a fuggire, è in corso una grande caccia all'uomo a Parigi perché si sono allontanati su un'auto nera che nel frattempo è già stata ispezionata e portata via, una Citroën DS nera, e poi con un vorticosa fuga nel 19° arrondissement della capitale francese hanno fatto perdere le tracce lasciando l'auto con cui si erano allontanati. E la domanda che io vi faccio e le vostre impressioni a caldo: facciamo abbastanza, ma nel nostro paese, ma dico in tutta Europa, con sforzi coordinati, secondo voi, di fronte a questo rischio che è permanente? Cioè, lo scopriamo oggi, o lo riscopriamo oggi per la durezza, la violenza di questa strage, però insomma il rischio siano, lo diranno le indagini, lupi solitari che si attivano, ci sia una rete dietro, lo vedremo solo una volta accertati i fatti, ma insomma il fanatismo di origine islamista, queste sono i segni che il Presidente della Repubblica Francese Hollande ha immediatamente associato all'attentato terroristico, ci devono indurre a una riflessione. La riflessione è se facciamo abbastanza, secondo voi, oppure se l'Occidente, freddo, incinichito, indifferente, piegato dalle sue enormi difficoltà economiche, come nel caso del nostro paese, sia distratto, malgrado i decenni con cui conviviamo, con questo sviluppo delle nuove minacce, che sono poi in realtà vicinissime a noi. Pensate al califfato a Derna in Libia, e al fatto che della Libia in realtà ce ne sbattiamo abbastanza, anche se a 20 minuti dalle nostre coste, e poi le altre vicende, quelle dell'ISIS in Iraq, delle azioni solo aeree internazionali, lasciando ai peshmerga doversi poi confrontare sul campo con il califfato, e così via. Non devo certo riepilogarvi oggi tutti i diversi fronti. Naturalmente bisogna anche in queste ore, almeno l'appello che io come ultima ruota del carro dell'informazione faccio, è a tenere la testa fredda, perché in definitiva noi abbiamo alle nostre spalle molti secoli in cui l'equivalente della satira, che è la quintessenza della libertà di stampa, finiva nelle galere, quando non finiva anche a rimetterci la vita per via degli stati europei dell'epoca che non sopportavano la libertà di stampa. E la satira, e tutto sommato la rivoluzione francese, viene da pamflettisti che prima nel Settecento andavano alla Bastiglia per quello che scrivevano. Ma detto tutto questo, questa è la nostra storia passata. Noi non dobbiamo dimenticare che alla sfida del fanatismo bisogna rispondere con le nostre leggi e i nostri principi, non con i loro. E tutto sommato, detto questo, bisogna però anche porsi l'interrogativo se noi siamo capaci di mettere in atto le giuste misure. perché abbiamo alle spalle, dalle reazioni degli Stati Uniti con gli interventi in Iraq, a Guantanamo e così via, un lungo processo di autocritica spietata su come si risponde poi alle reti internazionali del fanatismo islamista, e ovviamente questo è un problema per tutti. Quindi io mi auguro che chi telefonerà all'800240024 ci dia delle opinioni che tengano conto di questo modestissimo appello a tenere la testa fredda, a non invocare l'occhio per occhio, dente per dente, e purtuttavia questo problema esiste. Esiste ed è una parte anche della protesta che si manifesta in questi ultimi tempi in un bel po' di paesi europei. Avevate letto solo ieri e l'altro ieri sui giornali che riportava le notizie dalla Germania di cortei di formazione di estrema destra anti-islamiche che iniziano a manifestare anche in Germania l'attecchimento di una protesta di questo tipo. È un segnale molto forte delle posizioni politiche del Front Nazionale della signora Le Pen, che nei sondaggi per le prossime presidenziali francesi sta in testa e non certo alla fine. Quindi questo tema c'è e come nella vita politica dell'Europa. Il problema sono le risposte coordinate a livello di politica estera e di difesa e anche a livello di intelligence. Per capire un po' meglio l'ospite dal quale farci avere qualche dritta è un ospite che ha due qualità, l'ho scelto per questo. Primo, perché di nazionalità, di cultura e di formazione è francese, e secondo perché è responsabile di ricerca all'Istituto degli Affari Internazionali e vice direttore dell'area sicurezza e difesa allo IAI, ed è per questo con noi Jean-Pierre Darny, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio. Buonasera. Allora, mi sono tirato giù l'elenco degli ultimi gravi attentati, insomma, nella vita francese. In realtà dal 61 a oggi, questo è il più grave attentato dal 1961, quando ci fu in Francia vera e propria strage, perché 28 morti su un treno sullo Strasburgo-Parigi, in quel caso era l'OAS, quindi era il seguito nella politica francese delle vicende algerine. Ecco, e c'è una ventina di attentati da allora a quello di oggi, che è il più grave dopo quello del 1961, ma di segni molto diversi, perché ci sono sì attentati contro giornali o sinagoghe con morti, ci sono però anche attentati a opera degli estremisti corsi, ci sono attentati a opera degli estremisti bretoni, insomma è una storia meno facilmente intelligibile della nostra tragica storia italiana degli attentati. La prima domanda è una sorpresa, vista la durezza di queste proporzioni, per un analista francese di questioni di sicurezza e difesa, oppure no? Non lo so, una risposta affermativa sarebbe un po' arrogante secondo me, però ritengo giustamente che il contesto storico va esaminato, perché gli attentati terroristici di matrice, come dire, di matrice musulmano-islamica sono alcuni, tra l'altro il famoso attentato della Rue de Rennes era più legato a una questione di politica internazionale, di rivalità con l'Iran, piuttosto che di terrorismo ideologico. Quindi questo è molto fondamentale, e contestualizzare, rendersi conto che la storia del terrorismo francese non è come la storia del terrorismo italiano, dove gli anni 70 e una parte degli anni 80 hanno segnato una scia di sangue di matrici ideologiche diverse, essenzialmente due, ma comunque con una certa logica che poi ha fatto sentire i suoi eco abbastanza tremendi fino a tempi recentissimi. Allora, nei precedenti in Francia, al di là di, ma questo dobbiamo tornare a 20 anni fa, qualche atto di terrorismo, un dirottamento aereo a opera di gruppi palestinesi, al di là di questo, però, per arrivare in tempi più recenti a qualcosa che si rifaccia al jihadismo, parlo di quello che è avvenuto nel 2012 a Toulouse e Montauban, quando morirono 7 persone e ce ne furono 6 ferite e l'autore poi fu abbattuto, fu ucciso, Mohamed Merah, esattamente, ed era una specie di lupo solitario della nuvolosa di Al-Qaeda. Esattamente. Allora, questo è un punto fondamentale, perché nello stato attuale sappiamo che due uomini, non so tre, ma sicuramente due, armati di Kalashnikov, con una pronuncia francese, ma con una buona pronuncia delle parole arabe, hanno aggredito e ucciso un grande numero di persone nella sede di Charlie Hebdo e uscendone, e poi che si sono dilaguati nella natura. Sono due persone, potrebbero essere anche delle persone abbastanza isolate, del tipo Merah, che certo si rifaceva un contesto a Tolosa, a Montauban, un po' favorevoli, ma non è che era, come dire, manipolato da non so chissà che rete complicata e via dicendo. Quindi lì bisogna prendere un po' con le pinze le cose, però ci sono due livelli. Questo è sicuramente il livello nel quale uno potrebbe pensare che sia un numero ridotto, se non ridottissimo, di operatori di violenza criminali che per motivi che si possono presumere terroristici ideologici, ma uno, fino a quando uno non le prende, no, in inchiesta, e la giustizia non fa il suo operato, non si può sapere se certo. Ci sta qualche manipolazione, anche la stessa estrema destra, insomma uno può pensare a tutto in questa cosa allucinante. Comunque, però il mainstream è quello, ok, e questi fanno un attentato alla Mohamed Merah. Il precedente 2012 era contro simboli anche ebrei, adesso abbiamo un simbolo molto conosciuto nel mondo intero per le critiche che è stato fatto a tutte le religioni, particolarmente alla religione musulmana, con dei disegni satirici contro il profeta. Charlie Hebdo, essendo un giornale anarchico libertario, se posso chiamarlo così, una vecchia tradizione che io farei risalire anche al Comune di Parigi, a una critica insomma molto parigina e molto sana che si trova in Francia, ma che hanno anche, per dirla con franchezza, anche criticato con satire tremendi i preti accusati di pedofilia, ecco, i preti cattolici, preti, papi, eccetera eccetera, sì, antipapisti, anti quello che vogliamo, anti religiosi insomma, certo. Però sanamente, come dire, per una libertà di pensiero, certo oltranziera per chi viene bersagliato, ma insomma fa parte di una certa tradizione francese, ok. Ma questi, allora, lupi solitari potrebbe essere, perché questo è un, come dire, un obiettivo conosciutissimo, quello dalla Fari, delle famose vignette, condannato da un imam e via dicendo. Quindi, dopodiché, esiste questa cosa, la giustizia farà, speriamo, l'inchiesta, poi la polizia prima e poi la giustizia faranno il loro dovere, come in tutto stato di diritto che si rispetta, speriamo bene, ma poi c'è l'aspetto simbolico, perché questo subito dopo viene commentato, portato a un livello altissimo, il problema dei musulmani, il fatto che un libro molto particolare di Michel Houellebecq esce oggi, il fatto che Marine Le Pen, il partito del Front National, che ha una politica molto dura contro gli immigrati e che certamente ha delle posizioni molto critiche ai confronti dei musulmani, è in testa alle elezioni europee, le ultime, e sembra molto, molto ben piazzato per le prossime presidenziali 2017, la partecipazione di tutta una serie di persone al jihad, ovvero sia non soltanto in Francia ma in Grande Bretagna, in Olanda, insomma in altri paesi europei, dei giovani anche isolati fra di loro, ecco, e anche relativamente benestanti, io, come l'hanno fatto vedere. A questo punto le dico che la stima dei cosiddetti rientrati, cioè coloro che hanno esperienze dirette tra ISIS o jihad in Afghanistan e Pakistan, europei e rientrati nei paesi europei da cui erano partiti per convertiti al jihad, le stime di intelligence sono di circa 500 unità nei paesi dell'Europa occidentale, alcuni anche in Italia. Ecco, questo è un altro fenomeno da sottolineare, perché non si tratta semplicemente di immaginare delle reti o dei solitari fatti da estremisti religiosi che leggono i siti. C'è anche questa componente non proprio da sottovalutare. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:48, 48 secondi, stiamo parlando, facendo un po' di prime riflessioni dopo la strage terribile a Charlie Hebdo, settimanale satirico nel centro di Parigi, questa mattina 12 vittime, fino a questo momento 5 feriti gravi. Leggo un po' di sms che avete mandato. Opinioni molto varie e diverse, non sta a me criticare, le riporto. Dice Salda Bergamo: così come in Italia abbiamo risposte e atteggiamenti troppo timidi, non facciamo paura a nessuno, nessuno ci rispetta. Mauro da Udine è d'accordo, dice: di che ci lamentiamo, li abbiamo in casa e in realtà facciamo molto poco. Altri: bisogna leggere gli ultimi libri di Oriana Fallaci, aveva ragione ma veniva demonizzata. Altri ancora sottolineano le conseguenze politiche. Le Pen in Francia, ma Lega da noi, prenderanno 5 punti percentuali se uno fa il sondaggio domani mattina. Dice Nina Cooper da Milano: la scelta del nostro governo sarà di dare un altro giro di vite contro la privacy di noi tutti, problema che non c'entra niente con gli attentati come quello tragico di stamattina. Gli islamisti continueranno a parlare a bambara sul fatto che il Corano non predica la violenza, non cambierà nulla o quasi. Il libro di cui ha fatto cenno prima Jean-Pierre Darnis, che è il nostro ospite, è un libro su cui il Corriere della Sera, devo dire con intelligenza, secondo me, negli ultimi giorni, le ultime due settimane, aveva aperto un dibattito, perché è un libro che esce oggi in Francia, il 15 in Italia tradotto, Submission in francese, Submission in inglese, insomma Sottomissione, ed è questo romanzo di Michel Houellebecq che fa molto parlare, perché è un romanzo ambientato in una ipotetica Francia del 2022 e nel romanzo per l'epoca la Francia sarebbe governata da un presidente musulmano e resa schiava dalla dominazione più finanziaria che militare, della verità, di ricchi emirati feudali, ed è un libro che fa molto parlare perché è solo l'ennesimo di un po' di libri che agitano il dibattito culturale e politico francese e che spiegano anche poi perché poi Le Pen e il Front National sia in testa ai sondaggi, sia andato benissimo alle europee, tipo il libro Il suicidio francese, scritto da Eric Zemmour, che era un editorialista del Figaro, e che dice la Francia è in una deriva dal 68 tra femminismo, immigrazione, Europa, nozze gay, abbiamo perso il vero nostro recinto culturale e non faremo altro che innalzare bandiere bianche sui fondamenti della nostra cultura europea, ma soprattutto c'è uno specifico francese in questa riflessione. Allora, prima di tornare al nostro ospite, un po' anche di telefonate. Augusto da Trieste, prego Augusto, come la pensi? Ma la penso in questa maniera, bisogna risalire un po' indietro negli anni a responsabilità americane che volevano importare la democrazia in paesi come l'Egitto, l'Iran, la Siria e altri popoli definiti la primavera araba. In questi paesi la democrazia non si importa, deve nascersi per conto suo. Io ho lavorato molti anni nei paesi arabi e come me moltissimi italiani, se ne conosce le abitudini, gli usi e i costumi. La vita di un europeo, un cristiano, per un integralista islamico, a modello Isis o Boko Haram, vale quanto un secchio di immondizia abbandonato sulla strada. Non ci venga a dire che bisogna parlare d'Europa, che l'Europa è, che l'Europa è, che l'Europa è grande, immensa, a 20 nazioni con 20 eserciti e poi siamo sotto schiaffo da un manipolo di barbari sanguinari che uccidono, violentano donne nei loro paesi e fuori dai loro paesi. Quindi mi pare che Augusto sia dell'idea non facciamo affatto neanche il minimo indispensabile. Sentiamo Hisham da Bergamo, prego Hisham. Sì, buonasera dottor Giannino. Buonasera. Innanzitutto vorrei esprimere e condannare quello che è successo in Parigi e lungi dall'Islam quello che hanno fatto questi barbari che non sono altro. Essendo musulmano e predico la mia fede, per me quello che si dovrebbe fare è partire dal basso, creare collaborazione anche tra i centri musulmani che sono sul territorio italiano e collaborare insieme in modo che questi fanatici non trovano un territorio fertile. Hisham, posso fare una domanda su questo? Sì. Quello che le autorità italiane hanno fatto in questi anni, proprio a questo proposito, cioè quello che lei sta dicendo, una cooperazione affinché gli imam che operano nel nostro paese, le moschee, i centri di preghiera, i centri di cultura islamica, sappiamo che molti sono finanziati da monarchie del Golfo e così via, non sono le madrasse con cui nel mondo si è estesa ovviamente praticamente la rete dell'islamismo. Purtroppo è caduta la telefonata. Volevo chiedere a Hisham se nella sua esperienza si fa abbastanza in Italia perché davvero poi non diventino dei centri nei quali in realtà si moltiplica l'estremismo e il fanatismo, perché secondo me è un tema centrale. Io per esempio a questa domanda non so rispondere, non so se davvero l'Italia in questo faccia tutto quello che è giusto fare, ma so che questa è stata una delle polemiche in Francia più vive. L'esperienza della tradizione repubblicana francese, Jean-Pierre Darnin, rispetto alle moschee e al controllo che non siano dei centri di fanatismo, ha un bilancio positivo o negativo secondo lei? È un bilancio in tinte, come dire, un po'... Certamente l'investimento è positivo, e anche per tornare a qualcosa del quale parlavamo, ci sono stati degli esperimenti adesso, perché appunto il laicismo francese lo impediva, ma ci sono stati degli esperimenti di azione sociale con mediatori culturali musulmani svolte su persone di ritorno dal jihad o su candidati alla partenza, detettati in modo, e queste azioni con mediatori religiosi che come in qualche modo predicano un Islam diverso di quello del jihad, sono dei successi. Questa è un'esperienza ispirata sui paesi del nord che è certamente interessante. Quindi l'investimento, magari il laicismo, la francese ha un po' peccato di un po' non frenato trattare, all'inizio sì. È un po' frenato la presa in considerazione comunitarista, perché l'idea in Francia che l'acquisizione di diritti e nel trovare un lavoro ed essere uguale poteva, quel modernismo poteva risolvere tutti i problemi. E invece non basta. È così. No, infatti non è così. Sentiamo Enver da Milano. Enver. Buonasera a tutti. Buonasera. Assolutamente condanno quello che è l'azione di guerriglia. Su quello che io ho visto e su quello che... studio e su quelli che sono i miei valori, ci tengo a sottolineare che i popoli si sono sempre mossi nonostante confini, muri, certo. Ci sono muri che crollano in alcune città, muri che vengono eretti in altri confini e altre città, muri ideologici, muri culturali, non per forza come il muro che si sta elevando. Ma lei è italiano, Enver? Non ho capito questo. No, per metà turco e per metà italiano. Perfetto, sì. Quindi ho il dovere di sincretizzare due grandi culture, certo. Nel miglior modo. Secondo lei, con l'occhio particolare che ha per la sua storia, la sua cultura, la sua formazione, l'Italia fa abbastanza per impedire i focolai? Guardi, statisticamente parlando, il fatto che comunque, nonostante problematiche di sincretismi, dialogo e mediazioni che potenzialmente si possono sicuramente intavolare e fare sempre di più, perché sì. Malgrado questo non c'è limite, sì, alla comunicazione, ma malgrado c'è questo limite all'ignoranza, sì. Io penso che le azioni terroristiche che siano di matrice islamica nel mondo crociato e massone vengono interpretate per strumentalizzare e per carità, però il problema è se noi facciamo abbastanza. Io purtroppo avevo un mucchio ancora di altre telefonate, ci voleva un'ora e posso scusarmi con chi non mandiamo in onda. Jean-Pierre Darnis, ci sarà una reazione forte o la politica francese si divide come immagino? La politica francese è già unita in qualche modo, Sarkozy ha chiamato all'unità nazionale, stasera Hollande farà un grande discorso di unità. E Madame Le Pen? Del presidenzialismo. È una bella domanda questa, probabilmente no, sarà. Dovrebbe avere toni. No, lei comunque politicamente ne gioverà. Se ne gioverà. Insomma, vedremo. Allora... Continuate con Radio 24, con l'edizione di UGR e le altre trasmissioni. Appuntamento come a domani.